Topic of our Dhamma talk this evening is in quest of more wholesomeness. Kusala. L'argomento del nostro discorso questa sera è alla ricerca di più salutarità. Kusala. Within these last few days of this Satna retreat, our retreatants Satna here have had some development taking place in their meditation practice. And Satna, this involves the gaining of some wholesomeness. Nel corso di questi giorni di ritiro, i meditanti hanno acquisito, hanno avuto uno sviluppo della pratica, della meditazione, e questo include anche un'acquisizione di salutarità. And we do not want to content ourselves with this much of wholesomeness, but of course want to take it many steps further. E naturalmente non vogliamo accontentarci di questo livello di salutarità, ma vogliamo andare molti passi più in là. And so important in the context of purifying the mind is certainly the arising of intuitive wisdom, panya. Sorry? Important in the development of the mind is the arising of wisdom, panya. Un aspetto importante per lo sviluppo della mente è il sorgere e lo sviluppo della saggezza, panya. And certainly this Pali term consists of the verbal root jña, and certainly then the prefix pa in Sanskrit, it would be pra, and certainly then when we combine those, the verbal form is bhajanati, which means he or she knows. E la parola pagna deriva dalla radice verbale jña e dal prefisso pra. I don't remember the meaning of the jna is to know. Jna significa conoscere e pra. Pra is just a prefix. È un prefisso e la, mettendo assieme questi due termini, quindi significa colui che conosce. No, as Satna stated already in an earlier Dhamma talk, the original meaning of wisdom is certain to wisely, or one wisely understands the four noble truths. E come abbiamo già detto in precedenza, il significato originario di pagna, di saggezza, è conoscere le quattro nobili verità. Mm-hmm. And as Satna stated yesterday, the function of wisdom is to dispel or to illuminate the objective field, and thereby to dispel the darkness of ignorance. Come abbiamo detto ieri, la funzione della saggezza è di illuminare il campo oggettivo e quindi in questo modo dissolvere l'ignoranza. Now, in the course of this short Satna retreat, our retreatants have made some significant progress in terms of a purification of their ethical conduct or morality, sila visuddhi in the Pali scriptural language. Nel corso di questo breve ritiro, i meditanti hanno fatto dei progressi significativi in quanto a purificazione della morale o virtù, sila, in Pali, sila visuddhi. And so the retreatants here are observing, for the most part, the eight precepts, and are also observing the three factors of the Eightfold Noble Path that concern pure conduct, and Satna, those cover right speech, right action, and right livelihood. La maggior parte dei meditanti sta seguendo gli 8 precetti e i meditanti stanno inoltre seguendo le 3 parti della nobile ottuplice sentiero che riguardano la condotta morale, e quindi la retta parola, retta azione e retti mezzi di sustentamento. Mm-hmm. Apart from this, the retreatants here are observing what is known in Pali as Satna Indriya Samvara Sila, namely the restraint of the senses. E inoltre i meditanti stanno seguendo il contenimento dei sensi. And Satna, furthermore, at least for the monastics, there's using one's requisites wisely. Inoltre, per quanto riguarda i monaci, c'è anche il utilizzare i requisiti saggiamente. Now, the next level of Satna purification comes with what is known as purification of the mind, citta visuddhi in the Pali scriptural language. Il secondo livello di purificazione è la purificazione della mente, citta visuddhi. And so, this in essence concerns certainly the arising of concentration. It certainly applies to both the practice of samatha as well as the practice of vipassana meditation. E questo in essenza riguarda lo sviluppo della concentrazione, e questo aspetto è incluso sia nella pratica di samatha sia nella pratica di vipassana. Now, in the context of both samatha as well as satna vipassana, during the early days, the 5 hindrances tend to arise, and it is with increasing concentration that those satna hindrances will be at least temporarily suppressed. It does not mean that they will be totally eradicated. Sia nella pratica di samatha così come nella pratica di vipassana, nei primi giorni di pratica tendono a sorgere i 5 ostacoli, ma con lo sviluppo della concentrazione questi ostacoli sono temporaneamente soppressi, il che non significa che siano completamente sradicati. And certainly the type of concentration that arises in the Vipassana practice is referred to as Kanika Samadhi, namely momentary concentration. Il tipo di concentrazione che si sviluppa nella pratica di Vipassana è definito concentrazione momentanea. Now the term is a bit misleading. Now what is meant is when one observes the predominant object, such as the rising and falling movement of the abdomen, then, at least for a few seconds, maybe even longer than this, the mind is fully concentrated on the object, and then maybe a new object arises, more predominant object, the mind certainly gets focused on that, and certainly there will be some more moments of concentration with regard to that object, and so on and so forth. And in the end, you have a series of moments of concentration by being mindful of different objects. Quello che si intende con questo termine è che, ad esempio, una persona osserva il salire e scendere dell'addome e sviluppa alcuni momenti di concentrazione, almeno alcuni momenti di concentrazione su questo oggetto, poi sorge un altro oggetto predominante e si continua a sviluppare concentrazione rispetto a quel nuovo oggetto dominante, e così si hanno una serie di momenti di concentrazione con oggetti diversi, da oggetto a oggetto, ed è questo che si intende. No, the Visuddhimagga which speaks of seven stages of purification, and the first two have been mentioned already, then goes on to mention the purification of you, Deity Visuddhi, as the third level of purification. Il Visuddhimagga parla di sette livelli di sette livelli o sette stadi di purificazione. I primi due sono già stati menzionati e il terzo è la purificazione della visione. And what this is all about is purification comes or takes place through the discernment of the fact that there are only physical formations and mental formations occurring. E questa purificazione della visione ha luogo grazie attraverso il discernimento che ci sono solo che in realtà ci sono solo fenomeni fisici e mentali che accadono. And certainly this purification of you helps certainly a retreatant to purify his certain view through realizing that, at least temporarily realizing that certainly there is no permanent self to speak of. E questo riconoscimento aiuta il meditante a comprendere, almeno temporaneamente, che non esiste alcun sé permanente. One realizes that in observing the objects as they are coming up, that ultimately they are just physical formations and mental formations occurring, and that's all. E osservando gli oggetti, i fenomeni, gli oggetti che sorgono, si arriva a comprendere che infine ci sono solo oggetti mentali e fisici e nulla più. And that type of purification of you is a very basic, but also very fundamental purification that plays an important role for the further development of one's practice. E questa purificazione è una purificazione basilare, ma fondamentale, importante per lo sviluppo di ulteriori livelli di comprensione. And so what certain retreatants experience from a practical point of view, they come on retreat, they they listen to the opening talk, take the precepts, listen to the talk, apply the instructions to their meditation practice, and then carefully observe the phenomena as they are occurring naturally. Da un punto di vista pratico, ciò che accade è che un meditante viene al ritiro, prende i precetti, ascolta il discorso iniziale, applica le istruzioni e osserva l'oggetto di meditazione nel suo accadere. At first there will be a lot of wandering mind, there will be sleepiness, difficulties in the practice. Eventually things become somewhat easier, and then the hindrances tend to arise. So the hindrance of sense desire, of ill will, of sloth and torpor, of restlessness and remorse and skeptical doubt. Inizialmente ci sono molti, molti pensieri, c'è sonnolenza, ci sono varie difficoltà che sorgono, poi le cose si fanno man mano più facili, più agevoli e poi sorgono i cinque ostacoli, quindi il desiderio dei sensi, la malevolenza, l'indolenza al torpore, la irrequietezza e rimorso e il dubbio scettico. And so eventually one learns to overcome those hindrances as well as pains that might have arisen in the body. And so this then is usually followed by the arising of a number of wholesome mental states. Il meditante man mano apprende a impara a superare questi ostacoli, e una volta che questi sono soppressi, sorgono nella mente tutta una serie di stati salutari. And among those certain wholesome states, we have calmness, we have faith. We might further find some contentment there, and so on. E tra questi stati salutari abbiamo la calma, la fede e magari anche della contentezza, e così via. And so when that satna stage is reached, then usually meditators feel inspired to continue. E quando si raggiunge questo stadio, di solito i meditanti sono ispirati a continuare. Now, it is at this point in the practice that early on the hindrances were predominant, that give it retreatant or that pose as challenges. And then those are followed by the arising of some wholesome states, as mentioned. And so this contrast with first the hindrances being unwholesome mental qualities, and then calmness, etc., arising being wholesome qualities. With this, a retreatant comes to discern, learns to distinguish between unwholesomeness and wholesomeness. Quindi in un primo momento si manifestano gli ostacoli che rendono le cose difficili per un meditante, rappresentano delle sfide, e in un momento successivo sorgono questi stati salutari. E quindi questo contrasto tra gli ostacoli, che sono degli stati non salutari, e gli stati mentali salutari come la calma e altri stati che abbiamo menzionato, questo contrasto fa comprendere al meditante la differenza, e gli permette di distinguere tra non salutare e salutare. Mm-hmm. Still there's more retreatants tend to understand still more, namely that mind and matter are interdependent. So mind without matter will not work, and matter without mind will also not work. E inoltre un meditante comprende che la mente e la materia sono interdipendenti, per cui la mente non funzionerà senza materia, e anche la materia non funzionerà senza mente. No. With further practice, a retreatant is likely to gain yet another purification, which then is known as Kankavitarana Visuddhi in the Pali scriptural language, which is the purification by overcoming doubt. Successivamente il meditante sperimenta un altro livello di purificazione, che è la purificazione attraverso il superamento del dubbio. And this doubt that might arise concerns the relationship between, or the relationship of physical and mental formations. Do these physical and mental formations arise in a haphazard manner, by chance, by coincidence, or are these same physical and mental formations possibly caused by some supreme being? Questo dubbio riguarda le formazioni mentali e fisiche. E cioè queste formazioni sorgono a caso, in maniera casuale, o sorgono per l'opera, ad opera di un essere supremo. And when retreating keeps carefully investigating what is truly happening in the practice, then he or she will find that certainly those same physical and mental formations observed earlier on are connected by way of cause and effect. So it's getting colder outside and one puts on another layer of clothing. Or if in the morning before breakfast one feels extremely hungry, then one will eat a bit more. E osservando i fenomeni si arriva a rendersi conto che le formazioni mentali e fisiche sono legate da causa ed effetto. Ad esempio, se fa più freddo ci si metterà un altro ci si metterà un vestito in più, se il mattino si ha molta fame, quando poi sarà ora di colazione si prenderà più cibo. Or if one finds that maybe a certain dish is lacking salt, the hand will reach for the salt, sprayer, so, and add some more salt to the dish. Oppure se si trova che in un piatto ci sia poco sale, la mano si allungherà verso la saliera e metterà più sale sul piatto. Or, in a more detailed way, in the sitting meditation, one remembers some very unpleasant experience from the past and ends up getting quite angry about what happened, and the body also then tenses up, and the heart might start beating or might start throbbing. Oppure, per andare più nel dettaglio, durante la meditazione seduta emerge un ricordo dal passato, nella mente sorge rabbia e il corpo diventa rigido e magari il cuore inizia a battere in maniera più veloce. Or one might certainly find that there's a strong pain somewhere in the body, one labels it, one observes it, one knows its nature, and as the pain gets stronger and stronger, eventually aversion towards the pain arises, and then one sees the connection between the pain that gets stronger and stronger and the arising of aversion. Oppure durante la seduta sorge un dolore, lo si etichetta, lo si osserva, se ne conosce la natura, man mano questo dolore cresce di intensità nella mente sorgerà poi dell'avversione e quindi si vede così la relazione tra il dolore e il sorgere dell'avversione. In essence, in principle, there are four such cause and effect relationships. One consists of a mental object being the cause and a physical object being the result. Ci sono quattro categorie di relazioni causa ed effetto. E il primo tipo è quello in cui una formazione mentale è causa di un effetto fisico. Or it could be that one mental phenomenon is the cause and certainly the result is yet another mental phenomenon. Oppure la causa è un fenomeno mentale è causa e un altro fenomeno mentale è effetto. Or it could be that a physical phenomenon is the cause and a mental phenomenon is the result, or one physical phenomenon is certainly the cause and certainly the result comes in another physical phenomenon. Oppure la causa è un fenomeno fisico e l'effetto è un fenomeno mentale, oppure infine la causa è un fenomeno fisico e l'effetto è un altro fenomeno fisico. And so with this, Sadhana one, I think, clearly understands that Sadhana formations are not occurring by coincidence, by chance, nor are they occurring because of Sadhana, some supreme being. In questo modo una persona comprende che i fenomeni non accadono né a caso né per opera di un qualche essere supremo. Now, this Sadhana then, this understanding then represents yet another level of Sadhana purification. E questo costituisce un altro livello di purificazione. And within a 10-day retreat, this easily can be understood or gained by the retreatants. E questo livello può essere facilmente facilmente raggiunto, ottenuto durante un ritiro di 10 giorni. Now, we don't certainly want to get stuck there, however, and certainly there's much more to be explored. Tuttavia, non vogliamo fermarci qui perché c'è molto altro da esplorare. Now, the texts speak of Sadhana, the specific characteristic of the condition characteristic, and Sadhana, the general characteristics. And I'll explain what Sadhana this means. During the early part of Sadhana one's meditation practice, when observing the rising, falling movement of the abdomen or some other predominant object, the focus naturally will be on the specific qualities of the object. Sabhava lakana in the Pali scriptural language. Nei testi si distingue tra caratteristiche specifiche e caratteristiche generali. Per darvi un esempio, nei primi giorni di ritiro una meditante si concentrerà su quelle che sono le qualità specifiche dell'oggetto. So an object is there, you take a closer look at it, and suddenly then you realize, oh, the main ingredient is tension. Or on top of that, there's also some burning sensation there. So knowing the tension, knowing the burning sensation is knowing the specific characteristics of the object. Quindi si osserva un oggetto e si scopre che la caratteristica dominante di questo oggetto è la tensione e che inoltre è presente anche una sensazione di bruciore. Quindi conoscere la tensione e conoscere il bruciore è conoscere le caratteristiche specifiche di questo oggetto. And so in this certain way a retreatant gets to know the range of various physical phenomena, as well as the range of at least some mental phenomena. In questa maniera il meditante arriva a conoscere uno spettro di vari fenomeni, un ampio spettro di fenomeni fisici e anche un certo numero di fenomeni mentali. So when understands the specific qualities of the respective object. E quindi si arriverà a conoscere le qualità specifiche di relativi oggetti. Now, within a couple of days into a retreat, this, however, changes, and with that, then a retreatant is likely to experience more what is referred to as the condition characteristics of formations. And condition characteristic means to know the beginning, the middle, the end of an object. Dopo alcuni giorni di ritiro, continuando l'osservazione, si arriva a conoscere quelle che sono le caratteristiche condizionate dell'oggetto, cioè osservando un oggetto si distingue l'inizio, la parte centrale e la fine dell'oggetto. And in order to clearly see this, one as a retreatant, one needs to observe really carefully an object from its very, very beginning through its middle until the very end. E per poter vedere questo, il meditante deve osservare l'oggetto veramente momento per momento, dal suo momento iniziale, lungo tutta la fase centrale fino al momento finale. During the early days of a retreatant is likely, or the focus of the attention is likely to be on the middle section of an object, the middle section plus the beginning section. Ma all'inizio di un ritiro l'attenzione... The middle section and the ending section. All'inizio di un ritiro l'attenzione tenderà ad essere focalizzata più sulla parte centrale e finale dell'oggetto. Mm-hmm. And certainly, so over time, then gradually one comes to see the entirety of objects. Ma con il tempo si arriva a vedere l'intera durata dell'oggetto. Now, with still further practice, a retreatant is certainly likely to discover what is certainly called the universal characteristics, namely that objects keep changing. They are in a state of transition. They are in a state of flux. Alcuni altri giorni di ritiro si arriva a riconoscere quelle che sono le caratteristiche universali degli oggetti, ci si rende conto che gli oggetti sono in continuo cambiamento. And so, this is referred to as the impermanence of formations. E questa è ciò che chiamiamo l'impermanenza delle formazioni. When carefully observing predominant physical and mental formations, a retreatant sooner or later is also going to get a glimpse of the unsatisfactoriness of formations. E continuando ad osservare i fenomeni mentali e fisici, si arriverà anche ad avere una... una prima comprensione della natura insoddisfacente dei fenomeni. Mm-hmm. And so that then soon will be followed by a first direct experience of the anatta aspect, and formations are not identical with a self. E prima o poi si arriverà anche ad avere l'esperienza diretta di anatta, in cui si sperimenta che le formazioni non sono identiche a un sé. Mm-hmm. And so these certain three qualities, namely of impermanence, of unsatisfactoriness, and of anatta, of non-self, those apply, one finds, to all formations. E queste tre caratteristiche di impermanenza, insoddisfacenza e assenza di un sé si applicano a tutti i fenomeni, a tutte le formazioni. And certainly thus we speak of general characteristic or universal characteristic, namely samanya lakkhana in the Pali scriptural language. E queste sono definite appunto caratteristiche generali o universali. Now, in order to clearly understand this, it's really important that a retreatant pay closest attention to the very beginning of an object, the arising of it, the middle section of it, or the occurrence of it, and satna, then the ending, the disappearance of it. E per poter comprendere tutto questo è importante ed è necessario che il meditante presti attenzione a tutto il processo dell'oggetto, dal suo primo inizio, dal suo momento iniziale, lungo tutta la sua durata, o il suo accadere, fino al momento finale. Now, when we have a pain that sadhana undergoes sudden changes in the course of time, then we need to possess constant mindfulness. We need to possess really continuous mindfulness that is present from moment to moment to moment to moment, as long as the object lasts. Ad esempio, quando osserviamo un dolore, una sensazione dolorosa che cambia nel tempo, è necessario che la consapevolezza sia continua e che quindi ci sia consapevolezza momento per momento per momento. What we also need is a mindfulness that firmly grasps an object, so that grasps one rising movement from its very beginning to its very end, one falling movement from its very beginning to its end, or let's say a certain mental state that one grasps that from its very beginning to its very end. Inoltre è necessario avere una consapevolezza che afferra l'oggetto lungo tutta la sua durata, dall'inizio fino alla fine. And so when observing a predominant object, be it physical or mental, we do not want to just want our mindfulness to just skim over the surface of Fatna, the object, but rather the mindfulness needs to sink into the object, penetrate into the object. Inoltre, la consapevolezza non deve restare a livello superficiale, ma deve penetrare dentro l'oggetto, immergersi nell'oggetto. And so, this requires from the meditator's point of view that suddenly he or she is quite active, alert and with the experience. E perché questo sia possibile è necessario che il meditante sia attivo, energico, attivo e allerta. Now, sitting there and while observing the rising and falling movement of the abdomen and then falling asleep, well, naturally you're not going to understand your rise and fall. Se durante la meditazione seduta, quando osservate il salire e scendere dell'addome vi addormentate, certamente non arriverete a conoscere la natura del salire e scendere. Now, the continuity of Fatna mindfulness, to highlight this even a bit more, needs to be present from second to second, from microsecond to microsecond. E la continuità della consapevolezza per illustrare, per farvi comprendere meglio la continuità della consapevolezza, la consapevolezza deve essere presente veramente momento secondo dopo secondo, microsecondo dopo microsecondo. Only then will wholesome mental states have a chance to arise. E solo allora gli stati mentali salutari hanno la possibilità di sorgere. Now, if the mindfulness is not quite continuous, then there will be gaps in between gaps, moments of or lapses in mindfulness, and it is during those lapses that typically unwholesome mental states will arise. Se la consapevolezza non è continua, ci saranno dei gap, dei momenti di mancanza, di assenza di consapevolezza e solitamente durante questi momenti di assenza di consapevolezza tenderanno a sorgere gli stati mentali non salutari. An illustration for this that Satna, the Venerable Sāri Upandita Pīvānsa, has Satna given on many occasions is just like here, a floor consisting of wooden floor boards. Now, if you have gaps between one board and the next board, what will happen is that kernels of sand and dust will accumulate in between. Il venerabile Sayadaw Upandita ha fatto questo esempio a proposito, poniamo di avere un pavimento di assi di legno, proprio come c'è in questa sala. Se ci sono delle piccole fessure tra un asse di legno e l'altra, nel mezzo tenderà ad accumularsi dello sporco. So ideally, mindfulness should be rushing into a predominant object, entering into it and spreading over it, so that the mind stays closely and firmly with it. E idealmente la consapevolezza dovrebbe correre verso l'oggetto, entrare nell'oggetto e diffondersi nell'oggetto, in modo da stare con esso saldamente. Having labeled or noted an object of observation, then the mind enters into it, the mindfulness enters into it. Quindi avendo etichettato l'oggetto, la consapevolezza poi entra nell'oggetto. The mindfulness rushes towards the object and spreads over the object so that the mind stays closely and firmly on this object of observation. Quindi la consapevolezza si affretta verso l'oggetto e si diffonde attorno all'oggetto e resta con esso saldamente. So the mindfulness satna must have a dynamic quality and satna be confrontational. Quindi la consapevolezza deve avere una qualità dinamica e affrontare l'oggetto, porsi in confronto diretto con l'oggetto. If certainly your mindfulness has certainly those certain qualities, then swift progress in meditation is guaranteed, and certainly eventually the seeing of Nibbana will take place. Se la vostra consapevolezza ha queste caratteristiche, allora la pratica si svilupperà fluidamente e prima o poi arriverà l'esperienza del Nibbana. Now, when we observe an object certainly from its certainly very beginning until its certainly very end, then we might at first not certainly succeed. We might find it difficult to observe all three parts of it, so beginning, middle and end. So in which case, simply not to give up and certain to conclude, well, this is too difficult for me, I cannot do this, but rather with patience and determination to stay with it, to keep trying, and eventually one gets it. Quando si cerca di osservare un oggetto dal suo inizio fino alla fine, per tutta la sua durata, inizialmente sarà difficile riuscire in questo compito. E la cosa importante è di non arrendersi, di non arrivare alla conclusione che è troppo difficile per me, non ce la posso fare, ma di insistere, di continuare con pazienza e determinazione e alla fine si riuscirà a farlo. When we observe a predominant object, then the attitude plays an important role, and we want to observe with a calm and detached attitude, not worrying that we might be missing some details, or worrying about whether we're going to succeed or not. Nell'osservazione dell'oggetto un ruolo importante è giocato dall'attitudine con cui si osserva. Quindi è importante osservare con un'attitudine calma e rilassata, e quindi, quindi senza preoccuparsi magari di perdere dei dettagli o di non riuscire. The Samyutta Nikaya contains a discourse that is entitled "The Most Beautiful Girl of the Land." Nel Samyutta Nikaya c'è un discorso che è intitolato la ragazza più bella di un paese. At the time, there were some disciples of the Buddha who were somewhat sloppy in their own meditation practice. As a result of this, the Buddha then put together an illustration of how they should be practicing. Ai tempi del Buddha c'erano alcuni suoi discepoli che erano trascurati nella loro pratica meditativa, e quindi il Buddha li ha richiamati e ha dato un'illustrazione di come dovrebbe essere la loro pratica. And so the story goes as follows. At one point in a marketplace, someone announced that the most beautiful girl of the land will be dancing and singing. And with this, then more and more people gathered, and then when this most beautiful girl was, when she arrived and started singing, then the announcement was, "The most beautiful girl of the land is dancing and singing," and even more people attended. Nella storia si racconta che si è in un mercato e qualcuno annuncia che sta per arrivare la ragazza più bella del paese a danzare, e sentendo questo annuncio molte persone si radunano e successivamente arriva la danzatrice e si annuncia che è arrivata la ragazza più bella del paese a danzare, e ancora più persone si radunano. Now, there was a man who had, it seems, committed some wrong deed, and he was ordered to carry a pot of oil on his head through the crowd that had gathered to watch the most beautiful girl of the land dancing and singing, without spilling a single drop. And behind him followed a man with a drawn sword, ever ready to cut off his head if the other person would spill a drop of oil. C'era un uomo che aveva compiuto qualche azione, qualche crimine, qualche azione erronea, ed era stato condannato a camminare lungo, in mezzo a questa folla di persone radunate per vedere questa danzatrice, attraversare questa folla con una ciotola piena colma di olio, e dietro di lui una persona brandendo una spada era pronta a tagliargli la testa non appena avesse versato una goccia di quest'olio. Now put yourselves into the place of the person who has to carry the pot of oil. Now, just to imagine you have to carry this pot of oil through this big crowd of people. Would you have the time to watch the girl, the most beautiful girl of the country, dance and sing? Would you? Yes? And then, would suddenly you keep your attention on external objects, or would you keep your attention more on the body? Quindi mettetevi nei panni di questa persona. Avreste in questa situazione, vi mettereste forse, avreste forse il tempo di guardare questa la più bella ragazza del paese mentre danza, o mantereste invece l'attenzione, o restereste invece ben concentrati? Mantereste l'attenzione sugli oggetti esterni o piuttosto concentrati sugli oggetti interni? So obviously, the attention will be on the body, on internal objects. Naturalmente l'attenzione sarebbe sugli oggetti interni, sul corpo e sugli oggetti interni. And it's certainly with that kind of attention and focus that certainly we need to practice. Ed è con questo tipo di attenzione e di focalizzazione che dovremo praticare. So certain centeredness is required, and certain restraint of the senses is also very much required. Quindi è necessaria una certa centratura e anche il contenimento dei sensi è necessario. A more modern or another modern example would certainly be of fitness, someone who walks on a tightrope, let's say, from one end of London, the London Tower Bridge, to the other end. E per fare un esempio più moderno, immaginate una persona che cammini su una fune tesa tra un'estremità e l'altra della ponte di Londra. Uh-huh. And so when you're walking on a tightrope, you have to be totally focused. The slightest distraction that comes up in the mind, let's say you think about your bank account or so, and then this may cause you to fall off the tightrope. Quando si cammina su una fune è necessaria un'assoluta attenzione ogni istante. Se sorge la minima distrazione, poniamo che vi venga il pensiero del vostro conto in banca, allora si cadrebbe dalla fune. Okay. So these are some of the qualities that we will need during the remaining days of our retreat here at Biandeci Legi. Please apply what has been said to your practice as much as you can, and you're bound to benefit from these instructions, and you're bound to gain more and more. You're bound to have more and more purification, and with this more and more wholesome mental states will arise. Quindi applicate queste indicazioni durante questi ultimi giorni di ritiro qui a Pian dei Ciliegi, e se applicate queste, seguendo queste indicazioni, queste istruzioni, la vostra pratica è destinata a migliorare, e la sempre più salutarità sorgerà nella vostra mente. And so now that's it for this talk. E ci fermiamo qui.